get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Eccoci alla nostra 54esima trasmissione. Come state? Noi benone, anche perché stiamo ancora in uno stato di semiestasi. Beh, sì, è l'effetto Immaginaria, il festival internazionale del cinema lesbico che si è concluso da poco a Bologna. A proposito, oggi Rossella inizia la sua collaborazione con la redazione del coordinamento, la quale parlerà proprio di Immaginaria, sempre che sopravviva all'emozione del debutto radiofonico. Coraggio Rossella, vedrai che andrà tutto benissimo. Allora, oggi per voi abbiamo una serie di argomenti comunque legati a questo evento annuale molto importante. Infatti, nella nostra scaletta odierna, sono previsti altri due articoli legati ad Immaginaria. Il primo, che tra poco vi leggerò, ce lo ha fornito Angela, una nostra amica che vive fuori Roma e che, per questo motivo, avrebbe qualche difficoltà nel leggerlo personalmente. Molto volentieri presterò la mia voce. Il titolo è Attente alla Montano. Nel mondo lesbico si aggira una inquietante persona in cui mi sono recentemente imbattuta. Si tratta di una tale psicoterapeuta, autrice del libro E la notte non rimasero divise. L'opera prima della dottoressa Antonella Montano ebbi l'occasione di commentarla insieme alla mia fidanzata circa 2 anni fa, quindi appena edita. Restammo deluse perché il libro si rivelò pieno di luoghi comuni e comunque sembrava scritto ad uso di un pubblico in cerca di aneddoti o di frivole notizie utili a colmare un vuoto di curiosità che in genere gli etero hanno nei nostri confronti. Per anni, infatti, etero, maschi e femmine, mi hanno rivolto le seguenti domande. Scopate? E come? Come si fa a riconoscere le donne lesbiche? Dove vi incontrate? Quante siete? Una sorta di interrogatorio utile a soddisfare il loro desiderio di pettegolezzo. Ed ecco la dottoressa Montano pettegola sulle lesbiche. Sarà utile, per chiarire la mia affermazione, qualche esempio tratto dal citato libro. Capitolo 1, pagina 5. Le radici storiche e antropologiche del lesbismo. In questo paragrafo dal titolo impegnativo, l'autrice ignora quanto appena dichiarato di voler indagare e ci narra invece, testuali parole, come mi sono avvicinata a questo mondo, le avventure o, se preferite, le peripezie di una etero nel nostro oscuro mondo. Chiarito subito che l'interesse per noi lesbiche è nato da esigenze professionali, l'intrepida psicologa si è data da fare per incontrarci, testuali parole sempre, in club o in bar da loro frequentati a Roma, Milano, in giro per l'Italia e all'estero. Per alcuni anni le mie uscite serali sono state orientate quasi esclusivamente verso i loro ambienti. Alcune volte lasciavo mio marito e gli amici nel bel mezzo di una cena per correre agli appuntamenti. A questo punto mi è venuto da compiangere il marito, abbandonato per anni a causa di impegni professionali in solitarie serate trascorse per lo più senza la moglie. L'autrice però, malgrado le migliori intenzioni e gli sforzi profusi, deve essere stata piuttosto maldestra nei primi contatti. Infatti dichiara: «I miei modi di approccio per fare amicizia non funzionavano. Le donne lesbiche erano sempre poco disponibili o molto scostanti nei miei confronti. Nel migliore dei casi rimanevano sulla difensiva». Mi chiedo cosa la dottoressa Montano abbia chiesto per ricevere simili rifiuti, ma posso anche mettere a riposo il cervello. La spiegazione viene fornita nella frase successiva, aperte virgolette. Chi è lesbica ha avuto una vita di sofferenza, dunque si è chiusa in sé, maturando un comportamento aggressivo e un atteggiamento di diffidenza e ostilità. Devo dire che questa affermazione per me è stata fondamentale. Di colpo ho rivisto tutta la mia vita, un'esistenza di negazione, sofferenza, clandestinità. E ho visto anche il mio futuro, un futuro di negazione, sofferenza e clandestinità. E mi sono detta, è questo dunque il mio destino? E come cambiarlo? A pagina 10 ho trovato la risposta. Sia noi che gli eterosessuali alziamo barriere. Non siamo come la Montano che, sacrificandosi per anni, sera dopo sera, si è sforzata di conoscerci. Dovremmo noi vivere di più con gli etero e loro con noi. Infatti la dottoressa ci ammonisce, aperte virgolette, a nessuno può far bene chiudersi in un ghetto. Tutti hanno bisogno di conoscere gente di ogni tipo, di ogni sesso e di ogni orientamento. Ma è tra pagina 12 e 13 che l'appello alla società ostile che ci fa soffrire tocca il suo culmine. Sentite. Trovo assurdo che se una donna ama un'altra donna, gli altri possano a volte arrivare al punto di rifiutarla integralmente come persona. Ma tra una donna che ama un'altra donna e una che ama un uomo, non c'è alcuna differenza sostanziale. Le donne sono sempre donne e sentono e fanno le stesse cose. Strano però che sulla stessa pagina 12 vi sia un paragrafo dal titolo «Chi è la lesbica?» Ma come? Non siamo più normalissime donne? Che bisogno c'è di indagare, di definire? Ricado nella stessa sofferenza di cui a pagina 10. Come Dio vuole, arrivo a pagina 67. Il titolo del paragrafo è «Pregiudizi». La dottoressa Montano così ci descrive: le lesbiche non amano parlare di sé, beh, bisogna dire che già lo ha ampiamente sperimentato. Non hanno molti amici, tendono a nascondersi e a condurre una vita parallela. Mi sento una sorta di camaleonte notturno, è già da un po' di tempo che mi sento stanca. Infatti è già difficile vivere una vita, figuriamoci due. E poi la mia esistenza è ancora più interessante perché sono, come tutte voi, morbosamente gelosa della mia fidanzata e, come descritto a pagina 77, spesso le storie d'amore che cominciano con un intenso romanticismo a causa della gelosia mutano velocemente in un inferno. Così non è insolito avvertire all'interno della comunità lesbica la violenza e il fastidio provocato da sguardi e parole dure, dettati dal sentimento della gelosia. Certo, per avvertire tali tensioni, la Montano deve essere, come si dice, una rovina famiglie. Spero di non incontrarla insieme alla mia fidanzata, altrimenti la violenza potrebbe esplodere e io divenire pazza di gelosia. E così, malgrado non avessi alcun desiderio di incontrarla, l'ho vista mentre distribuiva questionari al Festival di Cinematografia Lesbica a Bologna. Sapevo che le organizzatrici l'avevano intercettata all'interno mentre si dava un gran da fare ad accumulare materiale sulle lesbiche. Le era stato chiesto di inviarlo in visione, chiarendo lo scopo della ricerca, e dato che le organizzatrici di Marginaria organizzano feste ben frequentate e abbastanza spesso, nel caso in cui avessero condiviso l'iniziativa, l'avrebbero persino aiutata nel far circolare il questionario. Credo che la Montano abbia pensato di potersene infischiare dell'opinione delle succitate lesbiche, quindi, indisturbata e imperterrita, si è messa all'ingresso del cinema con la sua assistente ed ha continuato a lavorare indisturbata fino a quando non ha fermato l'irascibile lesbica che vi scrive. E vi assicuro che mi sono incazzata quando mi ha detto a cosa serviva quel questionario, cioè a standardizzare un test per le lesbiche. Quella che dice di aver scritto un libro contro la nostra discriminazione ci tratta come una categoria diagnostica al pari, dunque, di quelle che ancora pensano che il lesbismo o l'omosessualità sono da considerarsi vere e proprie patologie. Peraltro ha iniziato ad interloquire con me definendomi signorina. Certo fa bene a sottolineare che io sono, a 40 anni suonati, una signorina, mentre lei, etero e sposata, può fregiarsi dell'appellativo ben più nobile di signora. E allora è bene mettere le cose in chiaro fino in fondo. Sarebbe bene che la signora frequentasse di più i suoi normalissimi ambienti e andasse a testare le donne etero. Forse farebbe più soldi e fortuna se, tanto per scioccare la comunità scientifica italiana ed internazionale, iniziasse a considerare le donne etero come una categoria diagnostica e, per essere ancora più corretta, iniziasse a considerare e a utilizzare per la taratura del test il suo caso clinico e quello dei suoi amici. Il brano che avete ascoltato era Salem, della cantante turca Andan. E adesso mandiamo in onda l'intervista fatta a Irene Capitelli e Cinzia, che hanno presentato ad Immaginaria un video, Viaggi lesbici, nella sezione sperimentale, ottenendo il secondo posto. Allora, siamo ancora a Immaginaria e in questo momento siamo in compagnia di Irene e Cinzia. Irene, regista di un film sperimentale, presentato qui e in concorso. Quindi vorremmo chiederle, chiedere a Irene e anche a Cinzia, come hanno avuto quest'idea, se ci vogliono parlare un attimo del film, di che cosa racconta, e niente, questo. Allora, comincio io. L'idea non è proprio partita da me. Io mi sono trovata un giorno, sono tornata a casa e lei, siccome ha la mania di questi due videoregistratori, videocamera, così gli piace fare riprese, eccetera, mi ha fatto vedere questo montatino, che era questo, diciamo, il primo montato di questo che poi è stato il definitivo filmetto corto. E, io sono un'appassionata di Star Trek. Ho tutta la collezione di Star Trek dal giornalaio che vi faccio lasciare, più film di vari tipi di Star Trek che ci sono stati, di varie generazioni. Amo la fantascienza e ho sempre desiderato nei miei sogni che queste donne, anche in X-File, anche se poi non è il genere mio perché è troppo noir per me, però avere così delle donne che finalmente vivessero in pieno il loro modo di essere donne, di essere lesbiche, sogni impossibili, no? E vivessero queste realtà e parlassero di loro, perché nei telefilm si parla spesso molto della realtà maschilista, degli uomini, delle loro cose. E al di là degli altri tipi di discorsi che Star Trek ci sono, il mio sogno è quello di fare tutto un film in cui ci siamo solo noi, e purtroppo non esistono in giro, in circolazione, cose del genere, almeno che io conosca, così. E vedere questa cosa montata da lei, che poi è molto ironica, mi ha divertito molto. Poi a me mi diverto a dare le voci, così, mi piace, fra amiche, no, fare questa cosa. E abbiamo cominciato per scherzo a metterci su, lei aveva scritto dei dialoghi, abbiamo messo con due microfonisti una cosa, delle voci su queste immagini montate. Ed è una cosa che mi ha divertito molto, e mi diverte molto creare a livello proprio di immagini e di creazione proprio filmica, anche se sono cose con tecnica povera, mezzi poveri, un vero film vero e proprio, forse ci arriveremo, io sono sicura se andiamo avanti, però farlo soprattutto nello spirito di amicizia. Poi sì, questa cosa poi si è evoluta, magari te lo dice Irene, perché dall'apporto dell'energia di tutte si crea veramente qualcosa di diverso. Comincia una, c'è sempre una che traina, no? Un po' le altre a qualche cosa. E poi col contributo, se a te ti piace la cosa, a me piaceva, per cui mi ci sono trovata a divertirmi in questa cosa, e si crea qualcosa di nuovo, tutto insieme. Ed è stato molto divertente per me questa esperienza. Poi non pensavamo proprio di venire qua, cioè è stata sempre lei che andiamo, sì, andiamo, e così ci siamo ritrovate qui adesso magari. Allora Irene, innanzitutto dici anche per bene tu il titolo del film di cui sei regista, e raccontaci un po' come è stato crearlo. Dunque, il titolo in italiano è Viaggi lesbici, e in realtà abbiamo lasciato il titolo che è Voyager, facendolo precedere da Lesbian Voyager, proprio per realizzare questo nostro desiderio di vedere un film di Star Trek finalmente lesbico. Il discorso che sviluppa il corto è il concetto che ci possiamo divertire a invertire i ruoli diciamo tradizionali delle donne nella fantascienza. Possiamo riuscire diciamo a inventarci, a farle parlare di loro stesse, cosa che non so se ci pensano proprio, no? E loro stesse inventandocele, insomma, questo è il discorso. Perché io penso che il fenomeno della passione per Star Trek, appunto si dice che alle lesbiche piaccia, sia legato proprio al fatto, a parte che ci sono belle donne, anche interessanti, no? E anche protagoniste. Anche vincenti, no? Per certi versi. Vincenti, c'è sempre il tecnico maschio che vince in Star Trek, e un po' si ricalcano i ruoli tradizionali della donna, però. Ci sono queste donne che puoi intuire che potresti essere te, ti puoi identificare in queste figure, perché finalmente una è comandante, l'altra può fare un'altra cosa e decidere, no? La stessa figura, per esempio, c'è la Skelly in X-File, praticamente senza di lei non funzionerebbe il film, senza le donne non funzionerebbe Star Trek, no? Vabbè, non voglio andare molto sulla critica di Star Trek. La cosa interessante invece è stata per me riscoprire diciamo l'arricchimento del lavorare insieme a altre lesbiche, proprio perché il grosso problema in in altri video amatoriali che abbiamo avuto, è stato proprio il discorso della individualità che usciva, no? Grosse individualità, che poi non riuscivano a arricchirsi una con l'altra, ma entravano in competizione. Allora il problema dobbiamo capire che le nostre diversità, la nostra differenza può diventare, anche fra lesbiche, un arricchimento, no? E tutto questo noi intendiamo farlo con l'ironia. Io penso che all'interno dei video anche che ho visto quest'anno a Immaginaria c'è proprio questo discorso che è difficile fare ironia, no? C'è più il dramma, la sofferenza ancora, addirittura arrivano queste cose noir del tipo dita recise, parti del corpo lese, eccetera, eccetera. E invece il grosso discorso di arricchimento proprio dell'Italia e del sud d'Italia, perché io definisco Roma il sud d'Italia, che può essere il cercare di riderci addosso, no? Negli anni 70 si parlava di una risata che vi seppellirà, adesso possiamo sperare di cominciare a fare una risata che perlomeno sia visibile e renda visibile l'ironia su noi stesse. Cioè io personalmente sono un tipo molto drammatico che ha questo problema proprio di giocare con la vita, no? Prendo tutto sul serio. Allora per me la sfida è proprio questa, usare il video come mezzo per uscire fuori proprio e ridere. Uscire fuori dalla drammaticità. Sì. Irene, io volevo domandarti una cosa, perché sono anni che ti conosco e ti ho sempre vista impegnata in quelli che sono stati poi i reportage di molte iniziative fatte dalle lesbiche, no? Volevo sapere se questo tuo iniziare attraverso l'utilizzo della telecamera per riportare delle cose che succedevano è stato proprio poi l'impulso che ti ha fatto venire voglia di scrivere qualcosa di tuo indipendentemente da un fatto reale, quindi adoperare anche il mezzo della fantasia, perché tu prima dicevi che hai visto molti film noir, no? Qui dove viene fuori spesso di nuovo il rapporto con la madre, tutto un pesantume non indifferente. E in definitiva poi invece anche lo scoprire che una storia lesbica può essere bella, è sicuramente bella, no? Allora, l'utilizzo della macchina da presa, che cosa ha significato per te? Cioè riuscire ad entrare attraverso con la macchina da presa dentro alcune storie o inventartele o farti portavoce attraverso la telecamera di queste storie? Cioè come ti è venuta questa passione, insomma? Io non sono una documentarista, per cui quello che posso raccontare è la mia di storie. Uh-huh. E se lavoro per esempio in questo caso con Cinzia che dà una voce e con Annalisa che crea il montaggio, posso, ognuna di loro può raccontare la sua storia attraverso uh-huh. questo. E, l'antico mezzo che si usava nel femminismo e anche quel poco lesbo femminismo che c'è stato era raccontare noi stesse attraverso appunto l'arricchimento della creatività, il mezzo del video, no? Però non raccontandosi come ti posso dire a livello serio, non scrivendo, ma semplicemente sfidandosi a cambiare su delle cose, no? Allora chiaramente a me non mi ha aiutato fare reportage sui luoghi delle donne, cioè io sono venuta altri anni a fare qui riprese eccetera, no? Per quello mi ha aiutato a imparare a gestire lo strumento telecamera. Okay. In realtà sto imparando a uscire fuori col mezzo video. È come, non è proprio autocoscienza, ma è un grosso lavoro su la creazione di me stessa. Senti Irene, e anche per Cinzia la stessa domanda, avete qualche altro progetto in cantiere? Progetti, idee ci sono, ce ne sono tante, anche non nostre, cioè di amiche che conosciamo e che vorremmo. Quando sono usciti i primi lavori a cui io ho partecipato in minima parte come vocina eccetera, sono sempre partite da idee. Le famose idee nel cassetto, però che uno dice no, ma vabbè, il problema è che allora ci sono state le energie, no? Quando è stato nel 95 eccetera, e adesso si sta ricreando quel per quelli di noi questa voglia, questa energia per fare, per tirare fuori queste idee e farne qualche cosa che diventa sempre altro da ciò che erano, rimangono le stesse, però si arricchiscono dell'apporto di tutte, e questo è bello, che poi vedi questa cosa la proprio la tocchi, cioè, no? Cioè il movimento è una praticamente cosa, no? È una cosa concreta che... e come diceva lei, appunto, vivi, riesce a esprimere una parte di te stessa, una parte che per me, la parte, nonostante sia un tipo molto serio eccetera, però ironizzare sulla vita per me è una cosa proprio che è molto importante, anche sulle cose serie si può ironizzare, molto difficile, io per esempio non sono capace, sono più capace a fare un tipo di ironia molto semplice, non molto... Mi piacerebbe continuare, sono sicura che continuerà questa cosa, perché c'è la volontà di fare queste cose, c'è la passione anche per lei per il rivese, io per altre cose, Annalisa per altre amiche per altre cose. E sarebbe bello, perché poi ti rendi visibile, cioè sei visibile, noi qui, ma potrebbe andare in giro, una cosa certo. Anche diversa, adesso perché sono immagini prese poi da altri film, eccetera, però la cosa bella sarebbe proprio fare una cosa proprio di totale produzione. Cioè dalla musica alle... sempre con mezzi, certo, perché... poveri diciamo, cioè... però sempre meglio con le musiche, i testi, le immagini soprattutto, e la costruzione fatta proprio vera, reale, da noi. E questo è molto bello, e se ci sono le energie crea una crescita, io sono molto... molto cresciuta su queste cose, anche grazie alle cose che ho fatto prima con loro, no? Quindi... E per la musica lesbica indipendente abbiamo scelto un brano all'insegna della musica country, tratto dal CD Life is Pink, il brano Back in the Rock. 1, 2, 3, whoa! No more work for the big band, yeah, the big band got it wrong. I got a life to lead and a woman don't bleed her rights away for long. Put the knife back in the rock, let's hear the women sing. Put the knife in the rock and let the mob talk, let's hear the women. Let's hear the women sing. Put the knife in the rock and let them all talk. Let's hear the women sing. Will crack, put the knife back in the rock, let's hear the women sing, put the knife in the rock and let them all talk, let's hear the women sing. We'll be right back. La finzione, si cerca un soggetto di finzione e la memoria resta sola a non cedere. La memoria si fa plurale, essenziale, come la vertigine che percorre una visione aerea. Con questa di Nicole Brossard si apre il catalogo Immaginaria edizione 2000 e si apre anche l'ottavo Festival del Cinema Lesbico che si è svolto a Bologna il 24, 25 e 26 febbraio. 52 film in 3 giorni, tanti tanti tanti, 14 sperimentali, 12 documentari, 24 narrativi, 3 film di animazione e 2 di Monica Troit, dai titoli assolutamente impronunciabili. 812 lesbiche, per un totale di 4.560 ingressi, si sono incontrate ed incrociate nei locali del cinema Nosadella. Per non parlare delle lesbiche alla festa del sabato, 866, un numero importante. È bello per me, che sono piuttosto abitudinaria, avere un appuntamento che è diventato fisso ormai da 8 anni. Quindi rendo merito alle organizzatrici della loro costanza e capacità, ma vorrei chiedere a loro, senza polemiche, perché mi hanno propinato la sera dell'inaugurazione un film come Una donna come Eva e quale relazione, a detta di Cristina Zanetti, ha con questa edizione di Immaginaria. L'edizione scorsa il film di inaugurazione era Fire e per chi ha visto entrambi si rende conto che un paragone non è proponibile. Comunque detto questo, passiamo agli altri film. Come ho detto, 3 sezioni, sperimentale, narrativa e documentaristica. 14 film sperimentali, sezione per me decisamente ostica, anche se quest'anno, forse per migliorate mie capacità intuitive, qualche cosa ho visto. Per esempio, Affascinante, di Amanda Taylor. Si tratta di una serie di interviste lesbiche che si trovano ad una convention sulla serie televisiva Star Trek. Situazione paradossale, con domande e risposte divertenti. Altro sperimentale, Ganzoben, di Eviera Zenana. Non tutte e non sempre abbiamo un buon rapporto con il nostro corpo e questa pellicola ci mostra in maniera ironica cosa può succedere ad una donna che sale delle scale sfidando la forza di gravità con un imponente seno. Divertente. Anzi, abbiamo riso molto. Infine Viaggi lesbici di Irene Capitelli. È un viaggio della capitana della Lesbo Voyager alla ricerca di Dana Skelly. La troverà sul pianeta Terra, dove incontrerà anche Immaginaria, ironici dialoghi, divertente la voce fuori campo, quella del computer ubriaco. Per la sezione documentaristica, 2 sono le pellicole che più mi sono piaciute, Fili d'oro, di Lucky Winner e Karen Eaton, e Divorzio stile iraniano, di Kim Lancillotto. 2 documentari che, se lontanissimi l'uno dall'altro, hanno un comune denominatore, cioè la capacità delle donne di essere coraggiose, forti, volubili e divertenti. Fili d'oro è la storia di una amazzone di 93 anni che fonda una rete di servizi per lesbiche anziane, le quali si raccontano in modo divertente, narrano il tempo passato, il tempo che passa e quello che verrà. Lesbiche che creano una comunità fidandosi della stessa comunità da loro alimentata, con la loro vitalità, intelligenza ed ironia. Mi sono decisamente commossa. Divorzio in stile iraniano è la storia di donne iraniane che lottano per ottenere il divorzio. Questo in Iran viene concesso su richiesta delle donne solo se quest'ultime riescono a dimostrare che il marito è pazzo oppure sterile. Quindi, storie di donne disperate che traggono dalla loro disperazione combattività, ironia e la capacità di sorridere ad una telecamera. Entrambi i documenti sono storie diverse, ma stravolgono stereotipi sia rispetto alla passività derivante dalla vecchiaia, sia alla passività derivante dalla cultura islamica. La sezione narrativa è sicuramente la più ricca. Vorrei segnalare La festa della mamma, gustosissimo cortometraggio di Chris Van der Stappen, incentrato sulla incapacità o difficoltà nel rendersi visibile alla propria madre, argomento sicuramente sfruttato, ma nel caso specifico reso divertente ed ironico. Secondo me è la chicca del festival. Altro film di cui devo parlare è Portami via, di Lea Poole. Ricordate Rispondetemi di qualche anno fa? Beh, moltiplicate tutto al quadrato e avrete l'esatta percezione della difficoltà di vedere questo film. A detta di molte bellissimo, per me tostissimo e difficile da digerire. Altra chicca della sezione narrativa, Acqua agitate, di Silvia Kall. Anche qui il discorso va a parare sulla visibilità e sulla capacità di accettare un no. Tutto ciò raccontato con ironia, con la chiara coscienza di chi si è, ma col sorriso sulle labbra e magari con uno svenimento. Infine Rivedere Giulia, di Jeanne Crépeau. una storia d'amore, diciamola, alla cuori nel deserto, forse ugualmente scontata, con qualche presa di coscienza in più rispetto al proprio esbismo e forse alla propria capacità decisionale e di autodeterminazione. Sicuramente altre pellicole potrebbero essere menzionate, queste però sono quelle che mi hanno colpito maggiormente. Il pubblico ha comunque premiato Baci alieni di Dana Gallman per la sezione sperimentale, Fili d'oro di Lucky Winner e Karen Eaton per i documentari e Rivedere Giulia per i narrativi. Vorrei fare una considerazione personale. Il tempo, l'esperienza e la pratica politica mi hanno dato la capacità di riconoscere almeno in parte pratiche politiche poco ortodosse, anche se il discorso sulla possibilità di avere un'ortodossia lesbica è di là da venire. Le stesse cose però mi hanno dato la capacità di vedere il lavoro altrui, riconoscerlo e dare riconoscimento. Quindi, brava Visibilia. Vorrei fare un nota bene. Chiacchierando qua e là, mi sono resa conto che l'usufruitrice di immaginaria ha poco tempo per confrontarsi su quello che vede. Quindi proporrei una pausa, magari dalle 20 alle 22, forse meno pellicole e più tempo per somatizzare quelle viste. When my daddy lived here, I never worried. When my daddy lived here, he read me stories. And I never was afraid when the endings were scary, 'cause my daddy would say, I will keep you safe when the wolf comes to the house. Now my mother has a boyfriend. She tell her that she's just a fool, and I've heard them fighting. I heard him knock her down, and I tried to read at night, but I don't like it now. 'Cause when the wolf lives in your house, you can't get Il brano che avete appena ascoltato era The Wolf di Katie Curtis. Gli appuntamenti. Grecia in barca a vela. Valeria e Anna Maria organizzano per la prossima estate, in collaborazione con l'associazione Desiderande, 5 settimane di soggiorno in barca a vela. Le settimane disponibili vanno dal 29 luglio al 5 agosto, dal 5 al 12 agosto e dal 12 al 19 agosto. Ogni settimana può accogliere fino a 8 ospiti. Termine ultimo per la prenotazione e la caparra è il 30 aprile 2000. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0347 66 07711. Il CICIP CICIAP, Club Culturale Politico Sportivo, Bar Ristorante delle Donne in via Gorani Nova Milano, organizza in due giornate, il 12 e il 26 marzo alle ore 16.30, di dibattito su metamorfosi, mistificazione, mutamenti. La prima giornata, desiderio femminile, politica del sesso. La seconda giornata, potere, poter essere, politica. Per maggiori informazioni rivolgersi al Circolo Culturale Politico delle Donne, Bar e Ristorante, via Gorani 9, angolo via Morigi. L'ingresso è di lire 20.000, il buffet è compreso. E sulle note del brano When the Silence Falls di Janis Jan, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutte. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.